Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Nel 2009 in tutto il mondo è stata installata più potenza eolica che a gas. E l'Italia, per una volta, possiamo dire che ha fatto la sua parte. Nel corso dell'anno appena concluso sono stati installati 1100 megawatt di potenza eolica, pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani e con un risparmio di CO2 equivalente a circa 4,7 milioni di tonnellate. In questo modo il contributo del vento è stato portato al 2,1% del fabbisogno lordo nazionale di energia elettrica. Sono andato a trovare Marco Pigni, direttore di APER, l'associazione dei produttori di energia rinnovabile, per commentare insieme a lui la buona notizia e anche cercare di capire quali saranno i prossimi sviluppi. Sentiamo. 1100 megawatt di potenza eolica installati nel 2009, un record. È un record ripetuto perché rappresenta un incremento del 30% rispetto al installato del 2008, anno che era stato a sua volta record perché aveva avuto un incremento anche questo del 30% rispetto al 2007. Insomma, siamo davanti ad un settore maturo tecnologicamente. Quali sono oggi i tempi di payback? Cioè un'industria che investe nel grande eolico, stiamo parlando di turbine da 1 gigawatt, 5 gigawatt addirittura, quindi oggetti alti anche 100 metri che non è facile gestire. Quali sono i tempi di rientro? Il payback è molto interessante ed è confrontabile con i payback della generazione da turbogas a gas, quindi un lustro. 5 anni. Potenziale nazionale, adesso siamo sui 5 gigawatt circa. Quant'è il potenziale nazionale del vento? Allora, attualmente siamo a quasi 5.000 megawatt installati, 4.850. Se il sistema della rete in alta altissima tensione, anche in media, lo sviluppo della rete evolverà per accogliere e rimuovere le congestioni, i colli di bottiglia che attualmente ci sono, oltre che se si semplificherà il procedimento autorizzativo, potremmo arrivare a 15-16.000 megawatt al 2020. Stiamo parlando a questo punto del 7-8-9% del consumo energetico nazionale. Attenzione, un conto è parlare dei megawatt installati, un conto è parlare dell'energia prodotta. Comunque in ogni caso si arriverebbe a una percentuale tendenzialmente del 6-7%. Attualmente siamo al 2% e in linea, come dico, con gli altri paesi più evoluti, anche se altri fanno molto di più. Cito l'esempio della Spagna che poche settimane fa ha annunciato di aver concluso il 2009 con un 33% di percentuale nel mix di generazione da fonte eolica, un paese che 15 anni fa era assolutamente a zero. C'è una difficoltà che riguarda l'organizzazione della rete. Oggi anche in tutta Europa si fa un gran parlare di smart grid, ossia di reti intelligenti che riescono a far girare l'energia, perché questo è indispensabile quando si usano delle fonti rinnovabili che sono meno programmabili delle fonti tradizionali. Ecco, in Italia questo problema sappiamo per certo che c'è. Che cosa bisognerebbe fare a questo punto? È possibile partire da subito con dei progetti che semplificano e razionalizzano la distribuzione e il dispacciamento della rete elettrica, facendo interventi di efficientamento e di coordinamento hardware e software con le tecnologie di adesso per migliorare la situazione della rete italiana di adesso. Occorre sicuramente andare avanti su quella strada e dopo aver risolto quei problemi ordinari occorrerà sicuramente lavorare nella implementazione di modelli di smart grid evoluti. Un esempio di un punto in cui la rete è congestionata? L'esempio più eclatante è l'esempio della zona di confine tra le regioni Puglia e la regione Campania, sulla direttrice Foggia-Benevento. Si parla di circa 1000 megawatt di impianti eolici insistenti su quella direttrice. Nell'ultimo anno si è dovuto assistere a una riduzione della possibilità di dispacciare, quindi di mettere in rete l'energia elettrica richiesta agli impianti, che ha ridotto di più del 10% dell'energia eolica producibile, e quindi si ha un danno diretto al produttore, ma si ha un danno collettivo per tutta, diciamo, il sistema paese, perché non si permette di lavorare al meglio, di utilizzare al meglio questa fonte. Anche perché quella quota di energia dovrà essere prodotta in un altro modo, magari utilizzando fonti non rinnovabili, che quindi non sono gratuite da un punto di vista della materia prima. Ci sono degli attori che potrebbero entrare nella filiera del grande eolico che per il momento insomma non si sono ancora fatti sotto, anche solo avvicinandosi all'industria del grande eolico, mettendosi a disposizione e ricavandone poi anche un beneficio. Penso alle associazioni degli agricoltori. Dunque, degli attori del territorio da meglio coinvolgere per integrare dei progetti industriali di sviluppo della fonte eolica in modo che le ricadute di compartecipazione nei ricavi degli utili aziendali siano direttamente più percepiti sul territorio dove gli impianti arrivano. Diciamo che di esempi di questo tipo ce n'è qualcuno in Italia e potrebbero essere incrementati. Più che sull'eolico di grande taglia, quindi diciamo wind farm da decine di megawatt, questa possibilità la vedo e la vediamo su un eolico di piccola e media taglia, quindi sul cosiddetto mini eolico, macchine fino a 900 kilowatt. Bene, torniamo in studio, grazie a Marco Pigni e agli ascoltatori per averci seguito. Mr. Kilowatt torna domani per raccontarvi un caso di ristrutturazione energetica nel comparto delle materie plastiche. Buona serata da Maurizio Melis.